Splash. C'è la coda in focacceria, c'è la fila anche in pizzeria. Ho una missione per la vita, prima che il gelato si sciolga tra le dita. Il triangolo nelle Bermuda, il triangolo nelle Bermuda. Guarda la cerniera prima che si chiuda. Io non prenoto l'ombrellone e mi prendo un bel cazziattone. Una coca mi costa di più che pagare il canone TV. Il triangolo nelle Bermuda, il triangolo nelle Bermuda. Ma per arrivarci come si suda? Io mi sono slogato il polso per pagare le cambiali dell'auto. Poi domani andiamo a teatro, spero di essere ricompensato. Ma allora ragazzi, ma non è che una volta entrati in questo triangolo nelle Bermuda e poi non si riesce più a tornare a casa? Si rimane imprigionati da una forza misteriosa. Ma allora non potremmo trovarci in spiaggia davanti a un fuoco con le chitarre, beviamo Coca-Cola, non so. No, Ma per arrivarci come si suda?